i morenti, la gelida tomba, polvere eri e polvere ritornerai, rimarranno solo le tue ossa, i vermi ti consumeranno gli occhi, le labbra, la bocca, entreranno nelle tue orecchie, si infileranno nelle tue narici, il tuo corpo si putrefarà nei più reconditi recessi ed emanerà un orrendo fetore. Sì, Cristo è resuscitato e si è unito in cielo alla schiera degli angeli, ma non per le creature come te, piene di ignobili vizi, vogliose di soddisfazioni carnali. Come osi venire a importunarmi e a prenderti gioco di me al mio sepolcro? Quale audacia? Che fai qui nella mia chiesa? Il tuo posto è il cimitero. Yeah.